Ci troviamo già a ricordare oggi una data importante perché sono passati 3 anni dalla liberazione di Kobane, che ricordiamo è uno dei 3 cantoni del Kurdistan siriano, della cosiddetta regione di Rojava, che è stato liberato dallo Stato islamico ISIS grazie all'impegno quotidiano delle unità di protezione maschili e femminili, gli YPG e YPG, che sono collegati al Partito Democratico Unito, che è un partito della sinistra curda che si rifà all'ideologia di Abdullah Öcalan. Adesso è sotto attacco un altro dei 3 cantoni, cioè il cantone di Efrine, e questo cantone ormai più una settimana quasi che viene tartassato dall'esercito turco. È una provocazione, evidentemente, il fatto di chiamare questa operazione Ramoscello di Ulivo non ha però provocato abbastanza la comunità internazionale. Ci sono state 3 posizioni, 3 paesi che si sono espressi fortemente contro questa operazione, che sono prima di tutto ovviamente Assad, il regime di Assad, perché in questo modo l'esercito turco è entrato di nuovo in territorio siriano. Poi il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ricordiamo ha deciso dopo il colpo di Stato del 3 luglio 2013 di sostenere Assad in Siria, e il governo francese, che si è sempre allineato sulle posizioni egiziane e siriane. Poi sono arrivati delle timide reprimende da parte degli altri paesi. La Russia, in maniera anche abbastanza nuova rispetto al passato, sta lasciando fare, e dall'altra parte gli Stati Uniti sono stati molto timidi. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono gli stati tra i sostenitori della guerriglia curda, YPG e YPG, proprio nella loro funzione anti-ISIS in questa coalizione internazionale un po' raffazzonata, talmente tanto che ricordiamo che spesso i combattenti curdi hanno espresso dei dubbi sulle vere volontà degli Stati Uniti di sostenere la loro battaglia contro i jihadisti di ISIS. Poi ricordiamo una reazione invece molto importante che si è elevata dal mondo degli intellettuali, degli accademici, impegnati nello stigmatizzare lo sbilanciamento che c'è in Medio Oriente. Uno tra tutti è Noam Chomsky, che ha chiesto direttamente la fine degli attacchi turchi in Rojava, ma evidentemente l'obiettivo di Erdogan è quello di fermare quello che può sembrare una vittoria ormai alle porte, perché finalmente dopo la liberazione di Raqqa i curdi siriani vedono realizzarsi il loro sogno, che è quello dell'autonomia democratica, cioè formare un cantone che sia governato secondo le regole del municipalismo che vengono da Öcalan, da Bookchin e da altri, ma soprattutto che questo cantone abbia continuità territoriale, cioè che da Ifrine si arrivi fino a Kobane, fino a Jezira, i 3 cantoni del Kurdistan siriano, e questa cosa è stata sempre impedita dai turchi. In precedenza è stata impedita formando una zona cuscinetto all'interno del territorio di Kobane, dopo che è stata liberata Kobane, e ricordiamo un episodio molto grave che si è verificato nell'inverno del 2015, quando è stato abbattuto il Sukhoi russo Su-24, e qui lì si è sfiorata una crisi diplomatica gravissima, tanto che ci sono stati degli embarghi economici ai prodotti turchi in Russia, e quindi poi in generale tra i due paesi si era arrivati ai ferri corti. E in questo momento si sta tentando la stessa cosa. Infatti l'obiettivo dell'esercito turco è quello di creare una zona cuscinetto all'interno del territorio di Ifrine, e evidentemente questo sta provocando una dura reazione locale. I primi, come al solito, a mobilitarsi sono le unità di base, quindi quando ci sono conflitti o attacchi come questi, i primi a mobilitarsi sono i comitati popolari, e sono i volontari che sono impegnati nei comitati dei combattenti YPG e YPG, e per esempio in prima fila ci sono le donne. Gli Stati Uniti, dicevi, erano i sostenitori, insomma, dei curdi. Ora, come dire, stanno un po' sacrificando la causa curda sull'altare dei patti atlantici? Gli Stati Uniti hanno sempre sfruttato, hanno sempre utilizzato, strumentalizzato la guerriglia curda, tentando di usare i curdi nel tentativo di rafforzare la loro coalizione internazionale contro ISIS. Ricordiamo che hanno chiesto alla base di Incirlik in Turchia per attaccare ISIS, però poi questi attacchi dell'aviazione degli Stati Uniti, della coalizione internazionale contro ISIS sono sempre stati effimeri, tanto che in alcune interviste che avevo svolto l'ultima volta che sono stato nel Kurdistan siriano, i comandanti di YPG mi dicevano potrebbero colpire con la loro aviazione una sigaretta e non colpiscono gli obiettivi di ISIS che noi segnaliamo, quindi evidentemente non c'è mai stata una forte volontà da parte degli Stati Uniti di sostenere la guerriglia curda, YPG e YPG, il tentativo dell'autonomia, di realizzare l'autonomia democratica da parte del Partito Democratico Unito, perché la strategia sostanziale degli Stati Uniti, così come della Russia, è sempre quella, è stata sempre quella di fare la loro guerra per procura in Siria, cioè di mantenere un bilanciamento tra Assad, il presidente siriano, e lo Stato Islamico, per evitare da una parte che il regime di Assad crollasse e dall'altra per sostanzialmente rafforzare questa componente tra delle opposizioni siriane che, ricordiamo, ha avuto grandi finanziamenti da parte dei sauditi. Dall'altra parte poi c'è tutta la battaglia interna, politica interna alla Turchia, che è legata per esempio al fatto che ora i sondaggi Erdogan sta perdendo molto seguito e allora fare una guerra significa motivare i suoi sostenitori, legati al fatto che c'è una retorica fortissima anti-curda in Turchia. Quando Erdogan dice siamo pronti ad arrivare fino in Iraq, ricorda che lui è stato tra i primi contrari al referendum per l'indipendenza del Kurdistan iracheno, che era tanto voluto da Barzani e che aveva portato ad una potenziale indipendenza della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Quindi evidentemente ci troviamo di nuovo di fronte alla retorica turca anti-curda e soprattutto contraria all'affiliazione che c'è tra il Partito Democratico Unito di Rojava e il PKK, che è vista come una potenziale minaccia per il confine meridionale sud-est della Turchia, e quindi evidentemente questo è al primo posto nelle preoccupazioni di Erdogan, e ha trovato fino a questo momento una gran parte importante della comunità internazionale che si è lavata le mani e ha lasciato fare.